Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Ok, buonasera a tutti, buonasera da Rock Wave, io sono Maurizio Cazzavara. Stasera, dopo un po' di tempo, vero Giovanna, ci siamo trovati, non ci siamo trovati, ci siamo definitivamente trovati, vieni a presentare il nuovo disco, Giovanna Lubbia. Buonasera Giovanna Lubbia. Buonasera a tutti, sono molto contenta di essere qui. Effettivamente è stato un po' travagliata la cosa di metterci d'accordo, prima sì, poi no, un po' di impegni insomma in questo tempo anche positivi, e per cui eccomi qua comunque. Stasera accompagnata da Floriano Bocchino. Buonasera Floriano. Buonasera a tutti voi. E presentiamo questa tua nuova creazione, Giovanna. Dopo un po' di tempo, quanti anni erano che no, che dal precedente disco, precedente sì. lavoro? Allora, diciamo che nel 2005 uscì Uno One. Sì, esattamente, era un bel disco, francamente, molto bello, con Grazie. Una produzione un po' particolare. Sì. Vero? Sì. Se vuoi ne parleremo anche esatto. della produzione. E vabbè, poi era uscito questo EP, Zero Watt, mi sembra nel 2007. Esattamente. E dopodiché, insomma, abbiamo poi realizzato... hai fatto altro percorso, secondo me hai cambiato leggermente strada o no? Sì, allora sicuramente ho fatto degli esperimenti anche con la lingua italiana, che insomma, visto che mi stuzzicava molto provare a vedere con la lingua italiana che cosa poteva venire fuori. Esattamente, dall'inglese sei leggermente passata all'italiano. Esatto, sì, anche se comunque l'inglese rimane la mia... La tua lingua madre, sì, tra virgolette, esatto. musicalmente parlando. Sì, sì, sì. Però comunque è stato divertente, è stata un'esperienza comunque che mi ha fatto scoprire anche dei lati nuovi di me e anche mi ha fatto scavare magari anche delle tematiche che non avevo mai considerato prima, per cui sono contenta comunque di questo percorso che ho fatto finora e spero di mantenerlo, anche se devo essere sincera è molto più difficile insomma in italiano. Sì, è vero, è molto più difficile in italiano. Io ho scritto nella presentazione dell'album che ho visto tante facce in questo disco. Sì. Una faccia cantautorale, quella solita tua, esatto. Una faccia un po' più sperimentale, una faccia sì. quasi rappante, se mi è consentito il termine, sì, una sì. declamazione, declami, cioè sì. canti più che cantare declami, e una faccia con delle tastiere. Questo sì. sviluppo, questa nuova Giovanna Lubbia musicalmente parlando, perché sei andata avanti così? Perché hai voluto sviluppare queste 4-5 tematiche? Sì, vabbè, allora il discorso del rap, sorta di rap, perché un po' Vega secondo me, no, in sì, alcuni okay, momenti, sì, non sì. so se sei d'accordo. Sì, sì, sì, Maurizio, bravo, sì, sì, sì, no, riguarda infatti. L'italiano. Esattamente, riguarda l'italiano. I pezzi. Esatto, io ho sentito, diciamo, veritiera, quel modo, quella forma di esprimermi, perché tutto il resto che anche magari avevo provato a fare mi sembrava un po' in un filone troppo tra virgolette italianeggiante, cioè il filone del bel canto, quella cosa lì che io non sopporto più fondamentalmente, per cui credo che in italiano manterrò ancora, credo anche per i prossimi progetti, quello stile, e senza negare mai poi, come dici tu, la mia parte melodica, cantautorale in inglese, certo. Che considero molto folk, anche sì. ascoltandomi dopo anni, anche ascoltando Uno One, mi rendo conto che poi alla fine il mio mondo è anche quello certo, lì. Tu insomma. Hai preso le cose positive, ce ne sono state tante in questo primo disco di esordio, le hai sviluppate, tenendo conto che ci sono stati altri percorsi, però sembra altri percorsi che tu volutamente hai fatto per poi ritornare a un percorso tuo personale, assolutamente personale. Certo, sì, comunque in questo nuovo progetto si chiama Monday Night. Che è una bella copertina anche. Come sempre le case piccoline fanno sempre delle cose molto positive dal punto di vista del libretto proprio. Sì. Il nostro fotografo ufficiale Agostino Villafranti che ha cominciato a fotografare. Il libretto è molto interessante. Anche il libretto interno, sì. Esatto, il libretto interno è fatto molto bene, a fotografia tua, sì, eccetera. Sì, sì. E mentre le major, le case discografiche grosse, non è che si interessano molto al libretto, si interessano... di Sanremo, il compilation di Sanremo, certo. cioè non c'era un libretto, c'erano dei titoli e basta, anche i dischi solisti dei partecipanti a Sanremo erano ben curati nel sì. libretto, è c'è vero. Un'altra tendenza. C'è comunque una parte che a me piace molto, nel senso che poi alla fine uno che viene a comprare il CD anche nei live qualcosa sì, di sostanza. Sì, ha un qualcosa che esattamente, perché che per esempio rimanere. Il libretto poi lo puoi, non so, lo puoi esatto. tenere anche indipendentemente dalla custodia, certo. E avere un ricordo comunque dell'artista, se ti è piaciuto, certamente, insomma, certamente. Ecco. Benissimo. Allora, questo è lo sviluppo che hai fatto, questo nuovo album. Allora, per svilupparlo meglio, come io dico sempre all'inizio di trasmissione, apriamo la finestra, e la finestra, sì, è il primo pezzo, chiaramente. Sì. Prima di fare sentire il primo pezzo che abbiamo scelto in scaletta, che Michele ha già pronto, salutiamo la nostra redazione femminile, la Nicoletta, la Patrizia e la Silvia, che danno sempre una mano a Rockwave. Sì. Abbiamo anche la redazione femminile. Bellissimo. È una cosa meravigliosa. Allora, Michele, partiamo col primo pezzo e poi cominciamo a parlare di questo nuovo tuo lavoro. Ok, grazie. Giovanna. Rock Wave, rock wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Life wasn't gentle to me. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. diretta rockway.altervista.org. Stasera, Giovanna, ci possono sentire e vedere soprattutto. Wow, quindi bellissimo. È una cosa fantastica. Una volta, sapevo, mi truccavo un po' meglio, però non importa. È lo stesso. Quando era il primo percorso musicale che hai fatto qua, non c'erano le telecamere. Poi abbiamo sviluppato, grazie a Roberto Baldi, che gira, che se n'è andato, torna dopo. Non si sa, è lui che ha sviluppato il discorso. Complimenti, ragazzi, proprio tecnologia avanzata. Siamo molto importante. Grande Michele in regia, fa tutto praticamente, mette a posto tutto quanto. Parliamo di questo pezzo, Giovanna. Il titolo, sì, lo ripetiamo, e parliamo della costruzione di questo pezzo. Ok, allora Monday Night è un brano che... Innanzitutto è la title track, come si diceva, sì, una volta. Sì, sì, sì, esatto. Dà il titolo, insomma, proprio all'album. E questo perché in quel lunedì notte è partito un po' tutto. Sì, il progetto nella mia testa. Poi mi ricordo che stavamo lavorando io e Floriano per un progetto con L'Apostrofo Aura. Eravamo in questo suggestivo anfiteatro, era tipo a Gardone Riviera. Ah, bello, bellissimo, bellissimo. Sì. E niente, mi ricordo che è stata anche una serata molto travagliata, nel senso che ci sono stati dei problemi anche per l'umidità, essendo anche estate, caldissimo, molto caldo, sì, e le macchine non partivano, si era impallato addirittura il loop di Laura, insomma un po' di cose. E in questo disagio profondo, poi anche seguito da altre cose mie interiori, la mattina alle 7 mi sono svegliata e sono partita subito per tornare a casa e scrivere questo pezzo. E da lì ho capito che tipo di impatto avrei voluto dare al progetto. Ecco, parliamo adesso della funzione che ha avuto Floriano in questo disco. Sì. Lo strumento che suona. Vai, Floriano, descrivi un momento l'importanza, cioè l'inserimento di questo strumento. Io suono il pianoforte, nasco come pianista. E in questo disco, e in particolare negli ultimi progetti a cui sto collaborando, suono il Fender Rhodes, che è un piano elettrico degli anni 60-70, molto famoso e molto bello. Io lo suono già da anni, da una decina d'anni suono questo Fender Rhodes, ed adesso sta ritornando sempre più, sempre più di moda tra i gruppi, soprattutto indipendenti, della scena indipendente rock, e non solo. E ho cominciato a suonare questo strumento con un gruppo milanese, si chiama gli Hemoglob, in maniera un po' più specifica. Dopodiché, grazie agli Hemoglob, ho conosciuto Laura, perché il produttore di Hemoglob è Marco Trentacoste, il quale un giorno mi disse: Flo, c'è questa Laura che cerca un pianista, andai a fare il provino, mi prese, e con Laura suonavo sia il pianoforte sia il Fender Rhodes. Ho capito. Con Laura ho conosciuto Lubian, che suonava lì nel live, lì ci siamo conosciuti, e da lì è partita la nostra collaborazione. Il Fender Rhodes è uno strumento molto particolare, perché ha un suono misto fra un organo e un piano elettrico. Molto usato da Jackson Browne, che mi pare. Sì, Jackson volentieri. Brown, dai Doors. Esattamente. Raymond Zarek, per esempio. Chiaro. Ed è molto vintage come suono, però utilizzandolo come lo utilizzo io, con effettistiche pedali di chitarra, quindi distorsori, delay, phaser. Bello questo pezzo, forse i nostri ascoltatori non sanno che ci sono anche i distorsori col Fender Rhodes. Esatto, è una cosa molto importante. Poi capita. Quindi sì. Floriano, dicevi, questo progetto tirato fuori, cioè hai utilizzato questi suoni. Questi suoni che sono piaciuti molto al produttore artistico del progetto, e hanno reso, secondo me, molto coeso proprio il suono e l'approccio sonoro del disco. E l'inserimento della voce di Giovanna, della Lubi, come è nato? Cioè, come ti sei trovato ad inserire la voce sua praticamente con il suono del La prima volta che abbiamo fatto la data ufficiale con Laura a Lecco, lei apriva il concerto chitarra e voce, e mi sono subito innamorato artisticamente di Lubian. Perfetto. Lo devo dire. Scesa dal palco e ho detto: Gio, suoniamo insieme. E così è stato. Mi ha portato anche un asciugamano, non me l'aveva portato mai nessuno. Perfetto, così è stato. Vuol dire che è cominciato il feeling musicale, sì, decisamente importante. Abbiamo cominciato a suonare tutte e due in duo, Fender Rhodes e chitarra e voce, e devo dire che mi sta facendo venire in mente una cosa, che il produttore artistico del disco, Enrique Gonzalez Müller, certo, che sempre tramite Laura abbiamo conosciuto, quando ci sentì live, lui fece un commento molto interessante sulla lotta che secondo lui da spettatore assisteva sul palco fra il mio Fender Rhodes, il mio modo di suonare il Fender, e la sua voce. Ecco. Perché a volte c'era proprio un contrasto che, devo dire, un po' si è dissipato, perché ho cercato sempre più di dar spazio ovviamente alla voce, certo, all'artisticità di Joe. Però un contrasto molto forte e molto stimolante, che ha stimolato, credo, anche Enrique, il produttore, e quindi l'ha inserito comunque con molta sapienza, devo dire, in tutti i brani. Come ha prodotto Enrique il disco? Cioè, ha lasciato a voi piena libertà di gestire le sonorità? Abbastanza poca, devo dire, nel senso che a parte due brani, Confesse e Bambole Meccaniche, che sono stati prodotti da me, Joe, il resto è stato prodotto da Enrique. Ci ha lasciato libertà nelle note da suonare. Ah, ho capito. Ok, però quando intervenire, come, in che modo, lo decideva lui. Ah, bene. Aveva un arrangiamento del pezzo molto chiaro in testa. Poi è chiaro che poi in sala certe idee vengono anche sul nascere. Lui prendeva spunto anche da noi, da quello che facevamo e così via. Il percorso creativo poi prende anche ispirazione dal momento, certo, della, certo, registrazione. Benissimo, questa è l'apertura. Così abbiamo capito il perché di certe sonorità. Adesso sì, sentiamo un altro pezzo che hai scelto, che è la traccia, ti ricordi? Sì, praticamente Confess. La traccia numero 7. Sì. Adesso la sentiamo e poi la apriamo, ne parliamo e poi cominciamo a suonare. Ok. Va bene. Okay. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. È un po' di sonno, Michele, stasera, leggermente un po' di sonno. Ti vedo, leggermente un po' di sonno. Giovanna, ieri sera alle 4 di mattina, io scrivo sempre le note alle 4 di mattina, lui lo sa. Dai, che spettacolo, sei notturnino. E quando è che dormi? Dormo dopo. dopo. E ho scritto che a me è un po', aveva un po' di umore rock questo pezzo, non so se sei d'accordo, Floriano, se sei d'accordo, Giovanna. Sì. Allora, a parte che è stato scelto anche un modo di registrarlo. Come è stato scelto? A me interessa come è stato registrato. Sì. Il modo di, la scelta del modo di registrare. Ok, allora è stato registrato in presa diretta. E quella è una cosa meravigliosa. Sì, insomma, e con questa lo-fi, no? Sì, in modalità lo-fi. Cioè, esatto. Vecchio stile, Floriano. Vuol dire con microfoni vecchi, vintage, messi proprio uno davanti alla chitarra, uno alla voce e uno al centro della sala. Presa diretta, via, senza click, senza niente, via. La traccia dall'inizio alla fine, buona la prima, buona la seconda, appunto, senza, esatto, tagli, sì, senza niente. Tanta responsabilità allora però. Un po', sì. È sì, come suonare live. E ti dirò di più, guarda che tutto il disco è registrato così, nel grosso della sostanza, cioè batteria, basso e Fender Rhodes, abbiamo sempre suonato insieme tutti e tre, e Enrique ci faceva fare una serie di take finché non sceglieva quella che secondo lui era venuta meglio. Che aveva anche il pathos giusto. Il pathos giusto e le dinamiche giuste. Dopodiché, una volta avuta la take migliore, si facevano delle piccole correzioni overdub, cioè riregistrando sopra delle piccole cose, uno stacco alla batteria, io due o tre note se non erano precise, ma il grosso tutto in presa diretta. Invece le voci e le chitarre a parte, ovviamente, per la qualità. Però è interessante questo del grosso in presa diretta. Cioè ci vuole un bel coraggio, tra virgolette, dico sempre tra virgolette, ma il coraggio non è questione di coraggio, è questione di voler suonare. Bravo, di fare il proprio mestiere. Esattamente, di saper fare il proprio mestiere. Esattamente. E abbiamo avuto la fortuna, di questo mi prendo il merito, di aver scelto degli ottimi musicisti che Li citiamo, visto che ci siamo. Enrico Sant'Angelo alla batteria, grandissimo batterista milanese che ho conosciuto nel mio periodo di vita a Milano. Antonello Labanca, contrabbassista e bassista che lavora con la Scala, che ho conosciuto a Milano all'Accademia della Scala quando ho suonato con lui. Stefano Calore di Padova, un bravissimo chitarrista con dei colori meravigliosi, lavora anche con i Catrinesh, esatto, ascoltateli che vale la pena. È un corno francese, sempre della Scala, amico mio che ho conosciuto lì all'Accademia, Angelo Buonaccorso. Vedi, tutti musicisti ad hoc, scelti, sì, volutamente, sì, sì, ad hoc, sì. Cioè, artisti nella loro professione praticamente, esatto, nel loro modo di, il corno francese non è molto usuale che in un ambiente tra parentesi rock a 360 gradi ci sia questo suono. Sì, sì, sì, ha fatto molto contrasto. Beh, è stato comunque l'idea è stata tua, Floriano, Enrique. È di Enrique. Sì. Comunque ha raggiunto l'obiettivo, perché poi nel pezzo che poi insomma sentirete è la ballad anche... ci sta bene, da un suono rarefatto, molto bello, sì. Com'è nato questo pezzo? Confess. Allora, Confess. Ti chiamo Lubian o Giovanni? Ma Lubian mi piace. Ti chiamo Lubian. Come è nato questo pezzo, Lubian? Allora, Confess è nato così in un momento un po' di rabbia e sicuramente ha in sé comunque una tematica d'amore, fondamentalmente. Cioè, io chiedo alla persona di confessare che mi vuole bene, per cui insomma è molto diretto ed è stato anche pretenzioso, sì, perché io sentivo che insomma che anche questa persona aveva bisogno di me, per cui mi sono sentita di scrivere questo brano con molta libertà e l'abbiamo poi realizzato con lo stesso impatto, cioè nel senso che è molto veritiera cioè quello che io volevo comunicare e il modo in cui è stato realizzato. Cioè praticamente la chiave di lettura musicale è la stessa chiave di lettura come l'hai scritto te, come, esatto, è partita dalla tua idea, si è sviluppata e doveva essere così, perché così sviluppava il discorso, esatto, dava, sì, il pathos come voi avete detto. Certo, sì, sì, sì. E comunque è un pezzo a cui io sono molto affezionata e non sapevo se l'avrei messo in questo progetto qui. Poi l'abbiamo in qualche modo ritrovato anche nel live. E nel live come lo fate questo pezzo? Fender Rhodes, chitarra e voce. Ah, così? Sì. Esattamente. Cioè, nel live c'è una differenza rispetto... Quando suoniamo in duo. Ma quando suoniamo con la band, basso e chitarra e voce. Sì. Variamo, ci piace variare. Ho capito, ho capito. E ti dirò di più, questo pezzo è stato aggiunto in fase di mixaggio. Enrique non sapeva nulla, perché poi è partito per l'America Enrique e dopo a disco finito ha avuto quella sorpresa. Infatti ti ho detto che Confesse, Bambole Meccaniche, che abbiamo prodotto noi, le abbiamo prodotte noi perché Enrique comunque non c'era più, e li abbiamo sostituiti e abbiamo aggiunto questi pezzi in fase di mixaggio. Abbiamo detto ok, aggiungiamo anche questi due pezzi qua. È andata bene praticamente. Sì, sì. Benissimo. 23, 30, 22, 35, 28 secondi. E adesso cominciamo, cosa dici? Sì, volentieri. Sei pronta? Sì, sì. Ecco, la chitarra no. L'hai portata, quindi esatto. È fondamentale. E cominciamo questa cavalcata nella musica di Lubia, musica del nuovo disco e anche di qualcosa di vecchio, adesso vedremo. In ogni caso, il disco nuovo si chiama Monday Night ed è l'etichetta della casa discografica è la... Autoproduzione vostra. Autoproduzione, sì. Non abbiamo ancora... Direzione artistica di Enrique, mentre la produzione vostra praticamente. Sì, produzione esecutiva vostra. Esatto. Ok, che pezzo ci fai sentire adesso per iniziare? Sì, volevo iniziare con il brano che apre il progetto Monday Night. È un brano che per me ha un significato tosto, nel bene. Senso che fra l'altro anche insomma mi denudo abbastanza. Si intitola The Veil e parla un po' di me, della mia infanzia, del mio mancato affetto paterno e basta, adesso ve la faccio sentire. Perfetto. Rock Wave, rock wave. L'onda del rock. L'onda del rock. You died before I had time to know you, 'cause I was one when they buried you. That was the time when I made a wish, but it doesn't matter, it never came true. So I had to kill you, Daddy. In any case, you are always there, in that other place, tropical and blue. I stay still, the frost makes a flower, and I step to you, while the dew makes a star. Down the veil to save me, freedom is far and heaven is changing. There's only lay down the veil to free me. Nobody is about, nobody is around. Only knew how the veils were killing my days to recover you. I am so stupidly happy, and I step to you while the dew makes a star. Only lay down to save me, freedom is far and heaven is changing. There's only lay down the veil to free me. Nobody is about, nobody is around. I put my soul in your hands, I live bare, and I put my soul in your hands. I live bare, and only veil to save me, freedom is far and heaven is changing. Please only lay down the veil to free me. Nobody is about, nobody is around. Blu Radio. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, brava Lubia. Grazie. E posso dire, Floriano, aveva un bel tiro questo pezzo. Bellissimo. Aveva bel tiro sia dal punto di vista da disco, sia dal punto di vista stasera, in questo momento, con la Lubia. Molto rocchettaro. Funziona sempre. E l'hai fatto in versione rocchettara, proprio con molta grinta. A me è piaciuto molto, ripeto, perché il tiro, cioè, immediatamente l'ho scelto come pezzo. Io non so, adesso non esistono più i singoli, però questo secondo me poteva essere un singolo potenziale. Sì. Trascinava molto, perché aveva la melodia, il ritornello, il riff e anche l'andamento, che era ben trascinante. Certo. Anche musicalmente era strutturato bene. Adesso voglio sapere come l'avete strutturato, come l'hai strutturato te, visto che sei il produttore esecutivo dell'altro, Enrique Gonzalez, è il produttore artistico. Esatto. l'abbiamo mantenuto abbastanza fedele nella registrazione. L'impatto che la band gli ha dato istintivamente durante le prove, prima ancora di conoscere Enrique. Quindi l'introduzione di Fender iniziale, la voce di Joe, si è aggiunto un ukulele, una chitarra di ukulele che ha suonato poi Enrique, tra parentesi, nella registrazione, per passare al primo ritornello. E quindi una prima apertura, una prima ascesa, insomma, sonora, per ripiegare poi un'altra volta in una dimensione un po' più soffusa della seconda strofa, un secondo ritornello che riapre un'altra volta il pezzo e un bridge che la spacca. Ecco, è quello il discorso. Il bridge è bello perché c'è la voce distorta sotto, se uno ascolta bene con attenzione si sente la voce di Joe che urla sotto, doppiando la parte cantata della melodia, proprio urlando, distorta, infatti si è allontanata 2 metri dal microfono per registrarla. Stile heavy metal, sai, esatto, quelle cose. Esatto. Dopodiché c'è un assolo che potrebbe sembrare di chitarra invece di Fender Rhodes con 2 distorsori. Che quello hai fatto te, chiaramente. Sì, che ho fatto io. E c'è poi l'apertura finale dell'ultimo terzo ritornello finale, che è un tono e mezzo sopra nel disco, perché è per poi avere poi la chiusura definitiva. Vedete, cari ascoltatori, quante cose ci sono in un pezzo da 4 minuti circa, quante strutture, quante scatole cinesi, incredibile. Esatto. Tante stanze. Tante stanze, è vero. È vero. E ripeto, il disco, cioè il pezzo mi è piaciuto subito, ripeto, perché aveva questo tiro, questo modo di andare, questo modo di accattivare la gente, ed è stata un'apertura ottimale. Si apre la finestra con questo pezzo, la gente comincia subito a capire, a sentire il nuovo suono di Lubia, grazie alla produzione tua, a questo modo di aprire le stanze, certo. 4 diverse stanze. Sì. Per quello nella recensione io ho parlato di 4 diversi momenti, che ho sentito così il disco tuo, Lubia. Sì, e fra l'altro questo discorso delle stanze è interessante perché è stata una delle cose iniziali che ha cercato di trasmettermi Enrique Gonzalez. Cioè, in una canzone bisogna creare molti ambienti in modo tale poi da cioè, comunque tutto omogeneo, però che si crei una dinamicità, no? Certo. E questa è una cosa che poi ho fatto, hai fatto tesoro, sì, tantissimo. Non so se è il discorso che lui abbia collaborato con la Devious Matthews Band, che è venuta qualche giorno fa a Parigi, ha fatto un concerto strepitoso. Sì. La Devious Matthews, ricordiamo che ha un sacco di dischi live, ha fatto parecchi, tanti dischi live e tante dimensioni diverse. Sì, una band che tantissimo. Ha una strutturalmente difficile da hanno catalogare. Delle dinamiche loro incredibili. Ogni brano dura minimo 5 minuti. Esattamente, come si usavano i Grateful Dead, come si usavano negli anni 70, fine anni 60, inizio anni 70, i concerti fiumi, 7-8 ore. Sì. I Grateful, ricordiamo, Jerry Garcia era un musicista straordinario. Infatti nei pezzi dei Matthews si può parlare di rock, di etnico, di sperimentale. Un po' di tutto. Sì. E quindi questo indole, questo DNA che aveva questo produttore artistico, esecutivo sei certo. te, ti ha dato probabilmente qualcosina anche su questo, non so se siete d'accordo. Sì, assolutamente sì. È stata una bella esperienza. Lui in America, a Los Angeles, ha lavorato veramente con persone di spessore, di livello, e allora ci ha trasmesso la sua esperienza in maniera spontanea e sincera, perché Enrique è così, è uno spontaneo, sincero, se sente il feeling allora si lavora bene con lui. Però non ha messo dei paletti importanti, sì, ha messo determinate cose da stabilire, però non è che vi ha imposto solo quello, vi ha dato la possibilità di allargare il discorso. Sì, tanto sì. Questo è importante, secondo me. Poi comunque, vabbè, anche la scelta dei pezzi che ha fatto... La scaletta che l'avete scelta voi? No, nel senso che... A parte Confesse e Bambole, no. Io credo di avergli dato una cosa come 44 canzoni che avevo scritto, e lui ne ha scelte un tot per poi quindi realizzare. Quindi tante nel cassetto pronte allora. Sì, sì, anche cose che magari fai, lasci lì. Però per esempio alcune di queste, per esempio c'è un brano che si intitola Only Small Things Matter, che è assolutamente una cosa che io non avrei mai pensato di realizzare, perché era un segretino tipo nel cassetto lì che messo là. E invece lui l'ha considerata una delle più belle canzoni. L'hai sentita in altra maniera, l'ha sviluppata in un'altra maniera. Sì, sì, sì. Che poi l'ha mantenuta proprio com'era. Ha solo aggiunto delle cose. Ho capito. Perché ha detto che era già canzone proprio. Quindi ho anche imparato questo, che alla fine lui ha scelto tutte le canzoni che probabilmente mi rappresentavano di più in quel momento, anche per lui, insomma. Per cui poi io mi sono anche fidata, nel senso che avere un produttore di quel calibro e che si mette a disposizione per lavorare, e ho detto ok, facciamo questo passo. Floriano, come le sistema, come le sviluppa live questi pezzi? Abbiamo detto o in due o in quattro, ma come li sviluppi? Cioè, prendi dal disco, non le sviluppi pari pari o no? Cambi. Cambiano, si cambia sempre, si cambia sempre, anzi addirittura ti dico, ad ogni live cerchiamo sempre di cambiare, perché altrimenti non ci divertiamo. È chiaro, questo è importante, live deve essere deve così. Essere diverso, deve essere diverso. Fare la stessa cosa del disco no. Non è più live. Infatti. E poi è difficile fare la stessa cosa del disco, o sì, no? È difficile perché comunque lì dove ci sono per esempio tastiere sovrapposte, come si fa? Dovresti chiamare tre tastieristi. Certo, dove ci sono quattro chitarre, come si fa? Voce distorta e voce pulita, diventa complicato. I cori, allora diventa difficile. A noi piace cambiare tanto comunque nei live, proprio per dare, mantenendo comunque il colore del disco ovviamente, però mettendoci anche delle parti improvvisate, giocando sulla sperimentazione. La metti in difficoltà allora, o no? Spesso sì, sì, vabbè. Ma lei si destreggia veramente alla grande. Ottimo. Senza problemi. Ok, sentiamo un altro pezzo da scaletta che Michele ha pronta. Andiamo nell'italiano, Parole assenti. Parole assenti, sì. Che parole è la traccia numero 3. La traccia numero 3. Benissimo, grazie. Rock Wave, rock wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Un blocco che esilia uno da se stesso. L'hai mai provato? Un blocco che esilia uno da se stesso. L'hai mai provato? Il mio insuccesso nei tuoi riguardi ha finito con ostruire ogni mia capacità creativa in un modo particolarmente disastroso, quale mai avevo provato in precedenza. Non posso abbandonare l'incertezza dell'arte, nonostante non sappia che cosa posso sperare di concludere. Un blocco che esilia uno da se stesso, l'hai mai provato? Un blocco che esilia uno da se stesso, l'hai mai provato? Ma come fai a trovare il tempo per scrivere con il da fare che hai? Deve essere splendido avere un passatempo del genere, ma sei sempre stata una ragazza strana. La mamma come va? La mamma come va? Era un uomo così simpatico tuo padre, io lo ricordo bene. Avrò l'impressione di vederlo ogni volta che ti guardo. Un blocco che esilia uno da se stesso, l'hai mai provato? Un blocco che esilia uno da se stesso, l'hai mai provato? Secondo voi sono radiofonica? Secondo voi sono radiofonica? Secondo voi sono radiofonica? Secondo voi sono radiofonica? Secondo voi sono radiofonica? Secondo voi sono radiofonica? Secondo voi sono radiofonica? Secondo voi sono radiofonica? Ma sei sempre stata una ragazza strana. Ma sei sempre stata una ragazza strana. radiofonica, secondo voi sono radiofonica, secondo voi sono radiofonica, secondo voi sono radiofonica, secondo voi sono radiofonica. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Diretta rockway.alterrivista.org, ci potete sentire e vedere stasera in diretta con Lubia e con Floriano. Dobbiamo salutare due persone, cosa dici? Sì, io volevo salutare Evelyn e Gianluca. Benissimo, ci stanno ascoltando. Grazie, grazie. Parliamo amici di questo pezzo, parole a sé. Intanto un testo in italiano molto pesante nel senso positivo del termine, è un arrangiamento decisamente, non so come definirlo, quasi rumoristico alla fine, sperimentale, sperimentale. Sì, sì, sì. Volutamente pesante nel senso positivo, cioè che fa pensare, che entra dentro con delle mazzate, sì, musicalmente parlando, ti aprono, ti fanno sentire qualcosa. Sì. Quindi va bene, no, perché mi viene sempre in mente questa cosa, perché quando è stato realizzato questo brano io ero in camera mia ed erano circa le 4 della notte, per cui e avevo questo motivetto in testa che ho detto devo capire come svilupparlo, trasportarlo poi nella chitarra. Ho cominciato a registrarlo per non perdere, diciamo, l'idea, e poi è stato, diciamo, poi concluso la sera dopo verso le 6 e mi ricordo che avevo proprio intenzione di buttare fuori qualcosa che non avesse niente a che vedere con tutto quello che avevo fatto fino a quel periodo lì, insomma, in musica. E credo che sia venuta fuori una cosa così sperimentale perché è stata proprio un'esigenza. E poi ho detto, adesso di cosa posso parlare con questa base così sperimentale? E avevo in mente solo che il disagio di non essere sempre riconosciuta nel mio lavoro, non come artista, ma come proprio una persona che è musicista di lavoro, per cui ho sentito queste parole assenti. Sì, sì, quando dici, ma Lubian, che lavoro fai? Io sono musicista, ma vorrei sapere come ti mantieni, cioè qual è il tuo lavoro dalla mattina alla sera? E io continuo a dire che sono musicista e spesso ancora le persone mi dicono sì, ma non è un lavoro. Eh sì, non è considerato un lavoro da queste parti. E allora, in Italia è così. Sì, esatto. Sì. E allora comunque è dedicato questo brano anche a tutte le persone che si sentono così. E sono tantissime. Sono tante. Sì. Ma poi anche non solo nel campo musicale. No, secondo me c'è anche artistico in generale, campo culturale. Esattamente, artistico, sì, culturale, sì, come ha detto giustamente, sì, Floriano. Sì. Musicalmente quindi è un pezzo importante e ha un finale psichedelico, non so, sì, di improvvisazione. Sì, sì, sì, totalmente improvvisato. Totalmente improvvisato. Noise distorto. Il noise, volevo arrivare, sì, a quello. Sì, sì, sì, noise distorto, ho aperto il coperchio del Fender e ci ho giocato proprio di mani sui diapason, sui tasti, anche il basso, Antonello ci ha messo tutte cose distorte con l'archetto nella parte inferiore delle corde, proprio perché volevamo sottolineare musicalmente con dei colori sonori il testo. Nell'autoironia dell'ultima parte, sì, perché sì, sì, io d'accordo. Alla fine chiedo, secondo voi sono radiofonico, ma è anche un modo per dire, ma cosa bisogna, cioè, ma chi cosa se ne devo frega fare? Se uno è radiofonico o meno, sì, alla fine, sì, mi interessa, dai, se mi piace una cosa, perciò se sono radiofonico vi faccio sentire il mio noise come radiofonico, se per voi può esserlo o non. E quella è non è la musica che agisce in contrasto in questo caso al testo, ma che lo sottolinea. Lo sottolinea, lo enfatizza, lo esaspera addirittura. Sì, lo esaspera. Cioè, giustamente, come si parlava, microfono spento, i primi due pezzi non hanno questa struttura così sperimentale. No. Volutamente il terzo pezzo, scritto in italiano, ha questa struttura sperimentale. Uno pensa, sicuramente non avrà una struttura sperimentale un pezzo scritto in italiano. Non è vero, è totalmente diverso. Esatto. E ha questa struttura molto particolare. L'idea quindi è partita da quella notte e si è sviluppata. Sì, sì, sì, poi Floriano, tu hai voluto giustamente inserirla in questa maniera perché doveva essere così. Sì. C'è niente da fare. Sì, sì. Un messaggio. un messaggio, un pugno in faccia veramente a tutti i luoghi comuni possibili e immaginabili, relativi all'arte, alla cultura e alle persone che lavorano da tempo, da sempre, facendo degli sforzi immensi per tirar fuori qualcosa da loro stessi e comunicarla. E Enrique cosa ha detto? Si è divertito. Lui che ha la sonorità americana, secondo me è una cosa positiva. Lui comunque puntava tanto su questo. Si è trovato molto a suo agio. Poteva essere quasi un singolo della Warner questo pezzo. Ah, se le cose fossero andate in una certa maniera. Se l'Italietta non fosse in mano ai mass media, televisione, X Factor, amici, perché ormai la comandano loro, major non fanno più nulla. Se non fosse stato così in Italia sarebbe stato un bel singolo. Potrebbe essere fuori dell'Italia. Chissà, no, in italiano fuori dall'Italia però non è male. È un po' difficile avere. Però si potrebbe anche tradurre in inglese. Sì. Per il mercato estero. Vediamo. Un'ipotesi, chiaramente. Dopo perde però il senso. Sì, perde un po'. Effettivamente tutto. Quando una cosa nasce, per esempio, una canzone mi è nata in italiano, quando provo a tradurla in inglese o viceversa non è più quello. E come hanno fatto dal vivo questo pezzo? Che è difficile. Però sperimentiamo sempre anche nel live. Se nel live tendiamo ad improvvisare, questo è un bacino. Questo può andare sul sicuro, poi allargarti esatto, come vuoi. Esatto, quindi anche questo cambia spesso veste, mantenendo però comunque la parte recitata e il motivo del ritornello cantato fissi comunque. Sì. Due parole solo sull'italiano di Lubian, volevo dirti che la sua scrittura in italiano è totalmente diversa dall'inglese, quindi non così cantautoriale come in inglese, può destare solo due sentimenti nell'ascoltatore: o la ami o la odi. E questa può essere un'arma a doppio taglio, ma anche un'arma vincente, secondo me. Quindi io consiglierei comunque di continuare per questa strada sull'italiano. Quindi ci sono anche lì, dentro il disco c'è il libretto che uno può leggere il testo. Esatto. Finalmente comprensibile nel disco di Lubian, una canzone. Si può leggere, chiaramente. Sì, il testo in italiano si sente, però può essere sentito distrattamente, mentre con il libretto c'è scritto tutto, puoi capire. Michele, cosa dici che facciamo? Sono 22:57, un altro pezzo, perché il gioco è un po' presto ancora. Facciamo un altro pezzo. Sì, no, o vuoi suonare dal vivo? No, ma se volete ascoltarne un altro. Facciamo un altro pezzo dal disco e poi cominciamo a suonare dal vivo. Yes. Ok. Rockwave. L'onda del rock. Centro commerciale che corrono su e giù. Blu Radio. Sono le 23 e un minuto. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, parliamo un momento di questo pezzo, Lubia. Sì. Vai. Una tematica. Intanto diciamo il titolo. Sì, Bambole Meccaniche. Perfetto. Avete appena ascoltato. Che è l'ultimo pezzo dell'album, la traccia, esatto, 10. Sì. E c'è una traccia nascosta. Ah, c'è una ghost track. Sì. Mi pareva ieri sera. Non riuscivo a recepire, ma che numero è questo? C'è una traccia nascosta, attenzione, perché se parte perché poi. Abbiamo fatto, tutto a posto. Tutto a posto, sì, sì. No, comunque è una traccia nascosta molto simpatica. Sorpresa. Chi acquista il disco, posso fare un attimo pubblicità? Ma devi fare pubblicità. Chi vuole acquistare il CD, e siccome è un'autoproduzione, ancora non abbiamo distribuzione né etichetta, può scrivere a contatti@lubian.com, Lubian scritto con J al posto della I, e può ordinarlo via mail. Insomma, noi glielo lo spediamo a casa. E, ripetilo, contatti@lubian.com. E chi lo vuole, insomma, oppure ci viene a ascoltare nel live. Esatto. Avete sì. Qualche data, vi ricordate? Sì, adesso diciamo che ho un tour nelle Marche e a Foggia, e Flo sarà impegnato con Molteni. Vai suonando con Molteni, sì. Un altro musicista straordinario, sì. Che ha avuto poca considerazione, sì. Che fa il pompiere per vivere, sì. Non so, fa ancora il pompiere. Ancora. Aveva detto che terminava, era l'ultimo disco, non è vero, fortunatamente. Questo dovrebbe essere il tour finale, l'ultimo tour fino a luglio, però io sinceramente sarò uno di quelli, poiché adesso poi sono entrato da poco nel progetto, a spingerlo per continuare un altro poco. Anche noi lo spingiamo per continuare a fare qualcosa d'altro, speriamo, che non speriamo. È possibile. Sì. Bravissimo. Dimmi, scusa. Comunque, no, niente. Mi fa piacere anche parlare di colleghi che stimo tantissimo. Fra l'altro c'è un brano, Il giocattolo di fuoco, che ho dedicato proprio a Molteni nel disco, per cui... Ecco, no, dicevo che potete guardare poi tutte le date in MySpace o anche su Facebook c'è una pagina proprio con Monday Night Tour e niente, scusa, ho perso un attimo il filo. Dicevi chi vuole acquistare il disco, esatto. O nei concerti o via con l'indirizzo, esatto. Che tu hai citato. Io comunque a me piace molto anche venderli ai concerti, nel senso che uno poi ha anche la veridicità di sentire il live, che insomma spero che... E sono già in ristampa, piaccia. Bene, esatto, molto sì. Positivo. Perché i dischi si vendono nei concerti. Esatto, sì, adesso sì. Prevalentemente sì. Sono nei concerti. Purtroppo, comunque se volete anche via internet mi scrivete e ve li spediamo a casa. Insomma. Benissimo, 23.04, adesso Michele, è l'ora, vero? Michele conferma, il nostro regista principe della trasmissione, conferma i 5 dischi da portare su un'isola deserta, che non è l'isola dei famosi dell'avventura, che è iniziata per l'ennesima volta. Vai. Allora intanto volevo fare un appunto, che saluto Miria da Mantova. Perfetto, un sta bacio ascoltando. Grande a te, grazie per i complimenti. E i 5 dischi invece che io vorrei portare nell'isola. Tocca anche Floriano, Sì. Ah, scusami. No. Posso iniziare io? Io non corro le idee confuse. Ok. Allora, io sicuramente sono legatissima alla mia musa Annie DiFranco, per cui Annie DiFranco, To the Teeth o The Late. Ne ha fatti tanti dischi. Ah, ne ha fatti tanti, sì, io li ho comprati tutti in una volta. E ho lasciato tipo alla Media World una cosa come 400.000 lire a suo tempo. A suo tempo, li ha comprati tutti in un pacco. Esatto. Poi vabbè, il secondo è un disco che ho ritrovato oggi e sono legatissima a questo progetto dei Counting Crows. È un live in New York. Ah, bellissimo. Per grandissimi cui... Counting Crows. Sì, mi piacciono tanto. Gruppo molto bravo. Lui secondo me è veramente fulminato ed è meraviglioso. La voce poi è incredibile, sì. Veramente incredibile. È fuori da considerazioni diverse, ma musicalmente è un genio, secondo me. Sì. Mr. Jones, ricordati, ragazzi. Esatto, Mr. Jones, esatto. Fantastico. Bellissimo. E poi vabbè, il terzo, io ritengo in questo momento di essere un pelo malinconica, per cui ho bisogno di un po' di coccole da Jewel con Pieces of Me. Ah, giù, ecco, una musicista che ha avuto un grandissimo successo e poi si è un po' persa, secondo me. Sì, sì. Il primo però... Il primo è un grande disco. È il primo che voglio portarmi. Il primo è un grande disco. Poi si è un po' persa con delle sperimentazioni, non sperimentazioni. Sì, anche quelle cose natalizie, un po'... Sì, un po' così, un po' di dubbio, posso dire, ecco, bravo Michele ha tirato fuori giù, di dubbio gusto in alcuni momenti, meritava qualcosina di più. Adesso sì, sta cercando di risalire la china, ma è un po' difficile. Sì, sì, però comunque vabbè, il primo per me è... E questo è Jewel, no? Non è Jewel. Va bene lo stesso. Ho preso un colpo. No, che... non è un'altra, non va bene lo stesso. No. Va bene lo stesso, dai. Non importa, fa lo stesso. Va bene, fa lo stesso. Comunque, no, Jewel mi... dopo mi te da... lo dico. Dai, dimmi. bella questa cosa di... un po'... da un po' di raucedine aveva forse Jewel. Adesso la cerchiamo, dimmi. Ok, no, va bene. Allora, Jewel perché rispecchia la mia parte malinconica di questo tempo. E poi, vabbè, Nick Drake, Pink Moon, perché mi ricorda delle cose belle. Bellissime. Non citare... l'ho fatto conoscere io, però. Ah, infatti, ma vabbè. Che bello. Sì. Ma perché? Perché giustamente sono passati tanti anni, ma lui è sempre nei cuori di tutti, c'è niente da fare. La bellezza di questo musicista, mi diceva, beh, tu sei un musicista, Lubia, la difficoltà, vedi, è proprio lei. Sì, brava, eccola qua. È proprio lei, è arrivata. E fa bene, la cosa sottofondo va bene lo stesso. E parlando di Nick Drake, la difficoltà incredibile di suonare i pezzi di Nick Drake. Sono difficilissimi, Madonna, sì. Perché ha delle accordature, sembrano semplici, ma sono difficili da morire. Sì. Ha delle accordature, avevi inventato proprio delle accordature molto particolari. Certo, ma è unico, io non ci provo neanche. No, proprio. È difficile, ma è meraviglioso. Anche un time molto strano. Esattamente. Sì. Tutto suo. Molto anche sbilenco a volte. Sì. Ma Pink Moon, un disco epocale, ma tutti e tre album suoi sono tre dischi epocali, perché era bravo, bravissimo. Ma se è andato via troppo presto, come tante volte, come Jeff Buckley, certo. Come tanti altri artisti, come sì. Elliot Smith, eccetera. Ok, Pink Moon, Nick Drake. Ok, ultimo invece è un gruppo che insomma sta andando tanto adesso nel circuito indipendente e a cui io sono profondamente legata, loro sono i Marta sui tubi, Sushi e Coca. Tu hai detto un bel gruppo, Marta sui tubi. Marta sui tubi, non ma c'è forse. Marta sui tubi, dovete averlo. Ma c'è da qualche parte, sì. Noi avevamo i primi dischi di Marta sui tubi. All'epoca mi ricordo che è venuto uno di loro, è venuto qui a farci visita. Sì. Ci ha inviato il disco, l'inizio di carriera praticamente. Sì. Poi le cose sono cambiate, eccetera, ma sono sempre molto validi a mio parere. Sì, meriterebbero qualcosina di più rispetto certo. A quella nicchia che ancora sono. Infatti, sì, poi però comunque... stanno crescendo, vero? Stanno tanto, crescendo. Tanto, vabbè, adesso sono anche con Barley Arts, sì, stanno facendo... Sì, quindi hanno aumentato hanno il fatto giro. Un tour con tantissime date, poi io credo che Carmelo Pipitone, che è il chitarrista, sia una realtà musicale, insomma, difficile da trovare in Italia. Io consiglio ai chitarristi acustici di andare a sentire come suona lui, perché... è incredibile, insomma. Decisamente. I cinque dischi della Lubia, tocca a te, Florian, vai. Allora, io sui primi tre non ho dubbi. Dimmi, allora. Ti stupirò, forse. No, le mie radici classiche qua parlano. Variazioni Goldberg suonate da Glenn Gould. Perfetto. Sicuramente. Sempre sul classico, ma sul jazz, Kind of Blue di Miles Davis. Beh, e Ballads di Coltrane. Hai detto due personaggi semplici, non hanno fatto niente nella storia della musica. Però ragazzi, questi due dischi in particolare, Kind of Blue e Ballads, pure sono per me... John Coltrane. Kind of Blue, quando hai dei dubbi su cosa mettere una sera, Kind of Blue. Perché Miles Davis secondo te, Florian? Miles, perché Miles è tutto? È partito tutto da Miles? Guarda, Miles è partito dal bebop fino agli anni 80, allo sperimentale. Certo. Sempre mantenendo costante il suo volto. C'è un band leader. Ho capito. Cambiando facce, cioè dal bebop, da Dizzy Gillespie e Charlie Parker, che aveva 18 anni, suonava con loro, è arrivato a fare tutto, a suonare i sintetizzatori, ma sempre come Miles Davis. E ha fatto Time After Time. Capisci? Cioè, è arrivato anche a quello. Pochi hanno fatto questo excursus nel mondo certo. Della musica. Quindi, cioè, e veramente... John Coltrane, perché John Coltrane? Perché John Coltrane mi coccola, il mio cuore. John Coltrane è proprio un miele per le orecchie, cioè ha avuto una vita così difficile, così dura, che è riuscita a riscattarsi veramente con la sua musica e con le sue composizioni in maniera... Composizioni non semplici qualche no, volta, no, assolutamente non semplici. Assolutamente, però Ballads è lo so. Per la melodia per eccellenza. Benissimo. Dopodiché sono legatissimo a Trent Reznor. quindi a Nine Inch Nails, e quindi un altro gruppo un po' particolare, sì, decisamente particolare. The Fragile, scegliere come album, che lo adoro tantissimo. Ecco, quello è un musicista che ha fatto un po' di tutto, che è riuscito, sì, a fare tutto, che ha dato una svolta a certe cose, nonostante che sia non era di nicchia, ma adesso non è più di nicchia, è un successo incredibile. Sì, soprattutto, sì, gli ultimi dischi hanno allargato l'orizzonte. Tanto, bravo, ha sperimentato tanto anche lui. Ha sperimentato tanto, ma è tanto bravo però anche. E poi, guarda, ultimamente mi sono innamorato tantissimo dell'ultimo di Johnny Cash, dove c'è una versione tra parentesi di Heart dei Nine Inch Nails. Citiamo l'ultimo che è uscito qualche settimana fa o il penultimo? No, no, il penultimo. Ah, il penultimo. Quello prima di morire, subito, sì, prima di morire. Non l'ultimo, che credo sia un best of. No, no, l'ultimo è uscito, è il sesto volume dell'American, sai, quello di, ah, okay, del produttore Rick Rubin. Sì. Ha fatto sei dischi American con... Sì, sì, sì, no, no, no, il penultimo Cash, allora, sì, il penultimo. Lui ha fatto tante cose, Johnny tante, Cash. Tante. L'uomo in nero è sempre stato un personaggio mitico. Sì. Fatto l'ultimo disco, l'ultimo postumo chiaramente, è uscito da, sì, qualche giorno, dove ci sono delle riletture particolari, come riletture, come hai detto te, ci sono tante riletture. One, ricordate One degli lui, due, come l'ha fatto lui. Sono curioso di sentirla allora. Non l'hai mai sentita, no, One fatta da lui? No. È fatta meglio del stesso Bono, ha detto, la fa meglio, ma di come me. Heart, come Heart di Nine Inch Nails. Ma la fa meglio di me, c'è poco da fare. Sì. Come All in on the Watchtower, Hendrix la faceva meglio di Dylan, sì, sì, l'ha inventata, l'ha creata, sì, sì, l'ha, sì, plasmata. È bello. Benissimo. Ok, 23, 13 e 20. Mi sto trasportando. Non mi devo trasportare, mi devo fermare. Adesso suona dal vivo a Lubia. Cosa, okay, ci fai sentire? Allora, volevo farvi sentire un brano che si intitola Michelle, che è un po' bello, tosto, sì, decisamente tosto. Però anche questo è un po' rock. Un po' rock. Abbiamo, sì, no, scelto, diciamo, poi no, una. Diciamo un po' rock, un pezzo rock. Sì, sì, sì, sì. Esattamente. Rock Wave, l'onda del rock. Princess, I've seen you so lost now for so long. Simple grace, your biggest part is swim down upon tonight. Pieces come, you crept like a snail through the days of your life. Oh, Michelle. Light and I recognize your face in my room. It coils in my ear like this song that I wrote to make you happy. And nobody's able to tear me over, tear me and use me again. The light of a thousand candles, we are out of the mud. Day by day, look in your memory, and you see shadows of the past. But nothing dies, close your eyes, that's all you'll ever need. Michelle is your name, my come to wait. This is the sound that I wrote to make you happy. And nobody's able to turn me over, turn me and use me again. In the light of a thousand candles, we are out of the mud. And nobody's able to tear me over, tear me, use me again. In the light of a thousand candles, we are out of the mud. Thank you. can slowly control your heart. Oh, and remember, you're my twin, even though you're so far. Don't surrender, moving slowly, control your heart. Oh, and remember, you're my twin, even though you're so far. And nobody's able to tune me over, tune me and use me again. In the light of a thousand candles, we are out of the mud. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. La Lube in versione punk. Poco da fare, la Lube in versione punk. Davvero sembra tutto dolcino. Ma è bella, grintosa. Sembrava distruggessi la chitarra. Dai. Ma è bello che sia così. Tutto Grazie. Dal vivo, ragazzi. 23 e 20. Tutto dal vivo, assolutamente. Era una distruzione in senso positivo, cioè sì. Eri in versione punk stasera. Io forse ho esagerato, ma eri in versione. No, l'approccio è quello. L'approccio è punk. C'è la prossima volta vengo pure col Fender. Molto, molto. Cioè, il pezzo è, già per se stesso era un pezzo rock, secondo me. E forse, a mio parere, è il pezzo più rock dell'album, se mi è consentito sì, il termine. Sì, sì. Ma tu l'hai proprio sviscerato alla Eni di Franco, ma versione tua, no? Eni di Franco. Sì, sì. Tu a te totalmente. Grazie, no, mi fa piacere. Comunque, effettivamente, quello che volevo chiederti è, vedi un grande cambiamento? Sì, c'è stato un cambiamento. Parlavamo con Floriano a microfono spento. Floriano non l'ha detto, adesso a me interessa che lo dica. L'evoluzione tra il disco precedente e il disco di adesso. Sì. Si sentono sicuramente molte più influenze in Monday Night, di ascolti, di vita, di esperienze anche, una maturità molto diversa. E, le differenze sono che sicuramente, e questo è certo, Monday Night ha una cura audio 10 volte superiore a 101. C'è proprio una cura meticolosa del suono, delle registrazioni, degli strumenti, dei colori, anche dell'esecuzione. Veramente molto molto superiore. I pezzi sono bellissimi in entrambi i dischi. C'è forse una maggiore unità di pezzi, di scritture e di arrangiamenti in 101. Questo è un po' più aperto. Sì, ho capito. Ha una quindi una voglio dire una un taglia un po' di più, ha uno spettro proprio molto più ampio, sia di genere che di arrangiamenti, che di costruzioni proprio dei brani, della costruzione proprio del suono. E può essere anche un contro, se vogliamo, ma noi l'abbiamo fatto in verità anche per cercare fondamentalmente di piazzarlo alle major. E qua è stato un po' un errore tattico, perché l'aiuto di Enrico è stato in questo è stato fondamentale, perché ci ha dato proprio una possibilità anche proprio di allargare lo spettro proprio. Però se avessimo stretto un po' di più lo spettro, avessimo mantenuto sul filone di 101 anche dal punto di vista degli arrangiamenti il suo lato più cantautoriale, sarebbe stato forse non so se è meglio o peggio, forse un po' più coerente. Però sicuramente come qualità siamo a livello superiore, qualità proprio di esecuzione di audio. Cioè praticamente nell'album precedente c'era una unici Lube è cantautrice, esattamente. Punto, stessi pezzi dal punto di vista proprio della costruzione dei bridge, ritornello, certo. Stesso arrangiamento, stesso modo di suonare, stessi strumenti. Qua invece no c'è un allargamento tanto. Totale. In più c'è l'italiano, sì, esattamente. E quindi può spiazzare questa cosa. Sì, quindi vero. Lo spettro da un lato si amplia. Sì, però dall'altro c'è un rischio, dicevi, è un rischio, sì, ma è un rischio calcolato o non è calcolato? Sì, perché è piazzabilissimo per una major questo disco, chiaramente. In teoria sì. Cioè, io ripeto, a me è piazzato benissimo, già ripeto, il tiro che aveva il danno d'apertura già mi dava l'idea che era diverso dall'album, secondo me. Sì. E ribadisco, qualche secondo fa hai finito di suonare in versione punk, nel senso punk, nel senso positivo, cioè con molto pathos, con molta irruenza, ma l'irruenza della musica è positiva, visto che il pezzo è tuo, l'hai chiaramente certo. Nell'arrangiamento di Floriano è diverso, ma qua sei solo te che cantavi e suonavi. Sì, sì. Lei ricostruito in maniera tutta personale, un live, cioè questo è un pezzo che potrebbe essere benissimo dentro un nuovo disco, anche se che chiaramente apparteneva a un pezzo precedente, però l'hai totalmente sì, diversificato, l'hai una... cambiato. Certo, certo. Comunque un giorno mi piacerebbe tanto fare una sorta di rivisitazione, una, come si chiamano? Sì. I greatest hits, però ripetuto, corretto, sì. No? Riprendere i pezzi, rivisitato come sì. Quel momento là. Sì, e poi una cosa che anche mi piacerebbe fare molto è, non so, proprio un disco in acustico e magari Fender Rhodes e un'altra chitarra. Una chitarra e basta. Sì, sì, sì, un'altra chitarra con me, chitarra e voce. Le vie del Signore sono infinite, dicono, certo, quindi sì, non ci sono problemi. Si può sempre tentare, certo, chiaramente. Fare un po' tutto. Quindi abbiamo parlato di Michelle, questo brano potente, bello, secondo me alle 23 e 22 ci sta. Ok. Ci sta, chiaramente i brani dopo, verso mezzanotte sono più quieti, sono più... Ma non è vero che siano più quieti, più malinconici, cosa vuol dire? Dipende, assolutamente dipende, dipende da tanti fattori. Ribadiamo, la produzione è tua, produzione esecutiva, mentre la produzione artistica è di Enrico Gonzalez Müller. Sì. Ribadiamo i musicisti, visto che ci sì. siamo. Enrico Sant'Angelo alla batteria. Non abbiamo citato te però, prima. Io, Floriano Bocchino al Fender Rhodes. Che fra l'altro è stato anche... essenziale, cioè importantissimo per il discorso degli arrangiamenti. Comunque sì, ha fatto sì, anche sì. un grande lavoro con Enrique tramite Gonzalez. Fra Enrique e la band. Esatto. Quindi sì. Io Floriano al Fender Rhodes, Enrico Sant'Angelo alla batteria, Antonello la banca, contrabbasso e basso elettrico, Stefano Calore chitarra elettrica, Angelo Bonaccorso al corno. In Engin che sentiremo dopo, credo. Benissimo, sì, in Engin che sentiremo dopo. E, tu hai detto che praticamente è stata una presa diretta. Sì, sì, la maggior parte delle registrazioni, sì, presa diretta. Quindi in trio, basso, batteria e Fender Rhodes, il grosso di tutti i pezzi l'abbiamo registrato in presa diretta, nel senso che abbiamo registrato take su take, Enrique ha scelto la migliore, quella che per lui era più ricca di pathos, proprio che dal punto di vista dinamico del suono, e tenevamo quella come take fondamentale, sulla quale poi apportavamo ognuno di noi piccolissime correzioni in overdub. Ecco, l'universo sonoro musicale, cioè degli spettatori sanno che cosa vuol dire take dalla Antonella Clerici che l'ha usata a Sanremo. Ma cos'è la take praticamente? La take è la traccia, proprio la traccia audio che viene registrata quando è pronta. Quando è pronta, esatto. Esattamente. È proprio il pezzo, in sostanza, il pezzo. No, ma io lo so, ma mica no, tutti gli lo ascoltatori sanno. Magari. Gli ascoltatori non lo sanno e non lo possono sapere. L'hanno saputo grazie alla Antonella Clerici a Sanremo. Ha citato la take anche lei. Esatto. E quindi la voce è stata inserita dopo. Sì, sì, sì. Per pulizia, per precisione, per... Benissimo, adesso sentiamo un altro pezzo da scaletta, vero Michele? Okay, che... ok, io proporrei il brano proprio quello con il corno francese, che si intitola Hängen, la traccia numero 6. 6. Perfetto, okay, molto bene, grazie. Rock Wave, Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. I Radio. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, benissimo. La dimensione del corno francese. Una cosa bella il corno francese. Non è usuale, come abbiamo detto all'inizio, che si sente in un disco rock il corno francese. No. L'idea del corno francese com'è nata, Floriano o Lubio? Uno dei due vuole spiegare. Enrique González è stato lui che ha colto il... Sì, esatto. No, ma io ho detto subito sì, anche perché... Poi guarda, dimmi. C'è stata questa coincidenza, perché tutti i musicisti, compreso Flo, vengono da... Ma Floriano viene dal classico, anche lui viene dal classico. Classico, per cui anche chiamare un cornista non è stato difficile. Esattamente, no. E infatti Angelo Bonaccorso poi è stato subito felice di partecipare a questa cosa e ancora adesso ci scrive, insomma, su Facebook. No, comunque, no, è stata una scelta molto azzeccata da parte di Enrique, secondo me, perché nel contesto del pezzo di Hanging, quindi un contesto comunque rarefatto. Sì, esatto, soprattutto rarefatto, hai detto una cosa giusta. Sì, quindi poi pochi accordi, una melodia meravigliosa, secondo me una delle melodie più belle che lui abbia scritto, che si muove su proprio una melodia sulla scala Lidia con la quarta aumentata. Adesso parlo un momento, però fammi capire un momento sulla scala, sulla quarta aumentata, cioè cosa vuol dire? No, è un po' difficile. Dovrei suonarla, capito? Cioè praticamente un suono un po'... È un suono un po' orientale, ma al tempo stesso meditativo e sereno. Hanging vuol dire attesa, certo, tra parentesi, quindi proprio sospeso su un filo. Allora il corno è secondo me uno strumento veramente adatto, perché poi in orchestra, se pensi, il corno serve sia per momenti drammatici, sì, forti, fanfarosi per esempio, e sia spesso si usa per accompagnare un flauto. È vero, un flauto traverso, quindi il corno ha una versatilità unica in orchestra e non è che sia suonato da moltissimi artisti. No, è difficile, no. Ed Enrique quindi ci ha visto giusto. Io ho chiamato Angelo e assieme ad Angelo in studio abbiamo costruito, elaborato l'assunto. Quindi Angelo ci ha messo totalmente del suo. Tu leggermente hai collaborato. Ho dato delle direttive. Sì, perché poi quando prendi comunque lavori con musicisti seri, professionisti, devi lasciare un po' lo spazio a loro. Certo, anche, certo. No? E tu devi essere bravo a modificare delle cose, smussare delle piccole cose, però dare l'espressività massima. Giusto, sì, è giusto che sia così. Certo. L'album, cioè il pezzo è stato costruito così, doveva essere costruito, sì, così. L'idea iniziale, sempre chitarra e voce di sera, ti è venuto in mente così? Allora, Hanging, no, era pomeriggio, pomeriggio, tipo le 2:30. Ok, mi si ricorda. Mi ricordo perché quando ho realizzato che era una cosa veramente bella, perché mi è piaciuta subito, ho detto questa potrebbe funzionare proprio come ballad, E, ripetiamo, è una ballad tra virgolette. Sì, sì. Mi ricordo che ero talmente contenta dopo averla registrata che sono corsa via con la macchina per ascoltarla nelle casse della macchina, sì. E sui colli. Ah. E mi ricordo che sono andata in un laghetto verso Torreglia. E proprio... Che laghetto è, Michele? Tu che sei tutto dei colli. Non mi ricordo esattamente. Non so. Non c'era gente che pescava. Non c'era gente ero, che pescava. Ero sola. E proprio per sentire il pezzo mi sono isolata. E ho capito che, insomma, sarebbe stata una canzone che avrei tenuto anche per un eventuale progetto, eccetera. E poi così è stato. Benissimo, benissimo. Ok, adesso sono 23:32. Abbiamo deciso... unilateralmente noi, quindi che tu okay. La chitarra e suoni un altro brano un po' rock and roll. Sì, un po' rock and roll, va bene, 23:33 va bene rock and roll, decisamente. Il pezzo come si chiama? Allora, si chiama Better Than Ever. Perfetto. Meglio che mai. Rock Wave, l'onda del rock. Stop and rest, I realize that this is where my journey starts, with a little song of mine. The way you look at me makes me feel lonely. You stay tonight, I'll wait for simpler times. Night is coming, now that I ain't leaving without you. Oh, I gotta see your face all around. I hear the sound, it's been all over right. All I can remember is better than ever. Night is coming, now that I ain't leaving without you. All I can see your face all around. I hear the sound, it's been all over right. All I can remember is better than ever. The door is shut at last. We may not look behind us. There is no more, no more. There is no less. It's happening. And I say, night is coming, now that I ain't leaving without you. All I gotta feel your face all around. I hear the sound, it's been a little ride. All I can remember is better than ever. Will I be able to read all the answers to my heart? I walk across the room. You make my hell bearable. Night is coming, now that I ain't leaving without you. All I gotta see your face all around. I hear the sound, it's been a little right. All I can remember is better than ever. Night is coming, now that I am leaving without you. All I wanna see your face all around. I hear the sound, it's been a little right. All I can remember is better than ever. Night is coming, now that I ain't leaving without you. All I wanna see your face all around. I hear the sound, it's been a little right. All I can remember is better than ever. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Dicevano i Rolli, it's sorry rock and roll but I like it. Questo è rock and roll, è assolutamente rock and roll. Una canzone felice, gioiosa, che voleva esprimere semplicemente festa, insomma. Sì, beh, questa è una festa. Un momento, sì, di condivisione positiva. Benissimo, tu l'hai cantata proprio con gioia, con così accattivante, perché volevi proprio fare rock and roll. Sì. Perché no? rock and roll al femminile, perché non si deve fare rock and roll al femminile? Un po' Sheryl Crow. Un po' Sheryl Crow. Ricordiamo che il prima rock and roll al femminile è stata Caterina Caselli, suonava il basso lei. Suonava il basso la Caselli. Ah, io, dopo è diventata produttrice, è diventata tutto quello che vogliamo, ma suonava il basso. È una donna che suonava il basso, 1964. Ragazzi, era proprio... Era molto avanti. Suonava il basso. Era una rock and roll. Bello. C'è poco da fare. Bellissimo, secondo me. E certo. C'è stato un... Tant'è che è l'unica discografica oggi in Italia che agisce ancora come... come una volta. È l'unica discografica. È l'unica che porta avanti i risultati. E diciamo, a proposito del rock al femminile, chi è stata a portare avanti il discorso del rock femminile? È stata Joni Mitchell. Sì. È stata la prima. È stata lei. Con Lauren Canyon e Blue. Album meraviglioso. E poi è stata anche Carol King con Tapestry. Il grande rock al femminile sono state portate avanti da questi due personaggi. Sì. Ricordiamo, Tapestry ha venduto milioni di copie. Era un disco meraviglioso. Un disco che aveva di tutto. Oltre alle collaborazioni con James Taylor ed altre cosette. E le due grandi protagoniste sono state loro a portare avanti. Quindi sono venute tutte le altre, sono venute anche la musicista che tu ami particolarmente, ma molto più tardi. Ma grazie a Joni Mitchell e a Carole King sono arrivate le musiciste americane. Oh, Patti Smith, per esempio. Anche lei. Sì. È arrivata dopo Patti Smith. Smith è stata straordinaria perché ha rotto determinati schemi. Sì, Because Night è un pezzo che lei ha scritto assieme a Springsteen. Ah. Non è che abbia scritto solo Springsteen, l'ha scritto lei assieme a Springsteen. Ah, ok. Io pensavo fosse stato solo è scritto assieme. E anche lei ha portato avanti un discorso molto interessante. Grandi musiciste rock, grazie a loro anche il rock al femminile in Italia, perché è giusto che sia così. Elisa ed altre cose prima, ma non c'è stata Elisa prima, è stata proprio Caterina Caselli, è quello importante. È giusto che sia così, Lubia, è bello. Bellissimo. Perché il rock al femminile non c'è solamente la Caterina Caselli, ma ci sono tante musiciste valide in Italia. Possiamo citare Cristina Donà, per esempio, mi viene in mente un nome. Sì. Cosa dici? Oppure, non so, la stessa Carmen Consoli, che ha fatto un disco molto bello, diverso dai soliti schemi della Carmen Consoli. È andato avanti, ha fatto un disco diverso, un po' coraggioso, forse non è stato capito totalmente. Tu cosa dici? No, conferma. Però è così, il rock al femminile. Cosa ne pensi del rock dal femminile, Lubia, in Italia, in questo momento? Io credo che... ci siano vediamo Floriano cosa ne pensa. Anche parli lui. Proprio di cantautrici, sì, in italiano. C'hai difficoltà ad andare a suonare in giro la tua musica adesso? Se ho difficoltà. Sì, spesso mi ritrovo che o perché magari non hai l'agenzia che ti aiuta. Ora diciamo, parole assenti. Esatto. Cioè, il discorso è che adesso, purtroppo, io lo devo dire, che ho sentito una difficoltà di espressione e una chiusura da parte, diciamo, delle etichette, anche etichette indipendenti. Indie, famose indie. Sì, che in un certo senso si stanno adeguando, se vogliamo, alle major. E questa per me è stata una grandissima delusione, perché comunque io nasco da una etichetta indipendente, certo, anche se con magari non con proprio discografici inseriti all'interno, ma comunque con gente di buona volontà che voleva provare a fare delle cose, e che poi ci siano riusciti in parte, perché io, per esempio, dopo il discorso del singolo preso nella pubblicità Back to Time, contenuto in Zerowatt, mi aspettavo magari un minimo di... Sì, di veicolo, di strada aperta. Esatto, in realtà invece poi questa cosa non ha portato a niente, se non a qualche piccolissimo apparizione. Diritto SIAE. Sì, o, ecco, quindi cose che comunque, doveva essere molto di più. Sì, quindi io credo che ci sia una crisi veramente generale, e anche i locali adesso sono tutti pilotati e un po' vincolati da queste agenzie di booking, che se non ne fai parte sei un po' tagliato fuori. Ho capito. Io tutti i contatti che ho e tutti i concerti che farò me li sto trovando da sola. Li gestisco da sola, e con amici che magari passano parola, con gente che mi segue ai live o gente che mi vede per la prima volta, che fatalità ha quel locale o quel club o gestisce quella rassegna teatrale, e allora mi chiama. Però se no è veramente difficile. Tu cosa pensi? Diventa molto complicato in questo modo veramente gestirsi, autogestirsi. Già fare un disco da solo è stato molto complicato. Un disco così, perché comunque ha dei costi, chiaramente. Parecchi costi. E poi, considerando che abbiamo registrato in un ottimo studio di Milano. Certo. Un ottimo produttore, insomma, artistico come Enrique. Siamo stati un mese e mezzo comunque in studio, fra Milano e Padova a fare le altre voci, insomma. Non era semplice. Non è però semplice. È un grande. Un grande sforzo produrre un disco, poi diventa uno sforzo ulteriore, poi se lo fa l'artista, cercare le date, sbattersi per trovare i concerti, i locali, i contatti in più, quindi allora il margine di crescita dici dov'è? Nel senso che quando è che poi riuscirò a entrare in certi circuiti, in certi meccanismi, in certi locali, programmazioni che possono aprirmi, questa diventa molto difficile, e stiamo lavorando anche per questo, nel senso stiamo cercando delle etichette, abbiamo dei contatti, speriamo che insomma vadano in porto. Medie fra le indipendenti e le capito. Major che possono, insomma, il problema è che lei canta in inglese e questo per un'etichetta indipendente è già per le major è difficile, certo. Ma per un'etichetta indipendente ancora di più, ancora di più. È donna, ha un progetto rock cantatoriale ma non rock sperimentale iperdistorto come oggi si porta. Si usa teatro degli orrori, tra certo. Le ragazzi morti, Marta sui tubi, le luci della centrale certo. Elettrica, che poi sono tutti uomini, tra parentesi. Certo. Quindi se parliamo di rock al femminile, allora ti dico Carmen Consoli, sì, rock al femminile, un po' più pop. Però non rock, è sperimentale. Però non è sperimentale, non è neanche prettamente cantatoriale, però canta in italiano, però ha avuto anche la sua visibilità, il suo passato, la sua storia, comunque ha venduto dischi quando non si piratavano dischi e si masterizzavano, quindi in epoca in cui ancora la discografia era, tra virgolette, più illuminata. È difficile. Diventa difficile. E capisco spesso le difficoltà, insomma, di Joe, di Lubian, nell'andare avanti, nel non trovare motivazioni. Però bisogna andare avanti. Secondo me sì, anche perché le conferme ogni volta che suoniamo ce le abbiamo sempre. Quello vendiamo le tantissimi conferme, cioè CD nei live. Ecco. La gente è entusiasta. C'è comunque partecipazione. Tanta partecipazione. Allora dico, cerchiamo di allargare, cerchiamo. Poi l'estero non è escluso. Perché no? L'estero non è escluso. Ci sono territori come il Canada che sono inesplorati e pieni di risorse. Certo. Poi una cosa che tu sai sicuramente, lo sa anche la Lubia, all'estero c'è una maggiore collaborazione, sì, che qua in Italia non c'è. Sì. Non si sa perché gli italiani vogliono, continuano a coltivare il proprio orticello e basta. Perché non si deve collaborare? All'estero collaborano tutti, dai grandissimi ai minori. Sì. Perché no? Sì. Mi dicevano della gente che è stata all'estero, nomi altisonanti, collaboravano, venivano a suonare. Se uno è bravo, è valido, perché no? Esattamente. Se non c'è un motivo. Perché? Perché io ho suonato a ottobre in America, sono andato a suonare con un cantante, Max Zanotti, di Diasonica, certo. Con cui adesso usciremo con un nuovo disco, il 26, piano e voce. Abbiamo promosso questo disco in America, abbiamo avuto un successo enorme. Vedi. E ti dirò, là non conoscevamo nessuno. Tramite un contatto preso via internet di un avvocato donna americana che ci ha ospitato lì e ci ha organizzato questo tour, abbiamo preso altri contatti, abbiamo conosciuto altra gente e lì vale quello che sei. Noi siamo stati premiati per il nostro talento, punto e basta. Non ci qua sono in Italia devi cose. Entrare in certi circuiti è per vero. Fare qualcosa, ma a tutti i livelli, non solo musicale, e questa purtroppo è la difficoltà del nostro purtroppo paese. Purtroppo è proprio così, sono perfettamente d'accordo con te. Benissimo, sono le 23:45, adesso sentiamo il pezzo simbolo, però è un pezzo molto bello secondo me, che a me è piaciuto immediatamente, che aveva il tiro come abbiamo detto all'inizio di trasmissione. Adesso lo sentiamo, Michele, cosa dici? Ok, lo sentiamo assieme. Dov'è? Rockwave, l'onda del rock. You died before I had time to know you, 'cause I was one when they buried you. That was that time when I made a wish, but it doesn't matter, it never came true. So I had to kill cold and blue. I stay still. The frost makes a flower, and I step free me, nobody's about, nobody's around. Blu Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Diretta rockwave.altervista.org per svegliare un po' Michele, per svegliare c'è Agostino, anche Agostino che ha curato le fotografie, la macchina fotografica. Roberto Baldi cura le telecamere. Dobbiamo anche ringraziare il nostro produttore artistico e organizzatore in toto che è Alberto Prisco, e io alla voce. Grazie. E grazie. La redazione femminile che abbiamo citato all'inizio di trasmissione. Benissimo, questo era un pezzo, ripeto, grande pezzo, molto accattivante. E una cosa che ho notato in queste 10 tracce, Lubia e anche Floriano, la ricerca nonostante tutto della melodia che sì. viene fuori. Esce, si sente il ritornello, il riff. Non è una cosa fatta a caso, una cosa voluta, ma voluta bene secondo me. E questo ne riprova, è questo il brano d'apertura. Certo, no, vabbè, io ti ringrazio. Credo che è una ricerca che sento anche come una mia caratteristica, nel senso che io senza la melodia è quella roba che ti entra nell'orecchio e ti tampina un po'. Esattamente. Anche per esempio, adesso per carità non voglio anticipare niente, però ultimamente ho scritto delle cosette così, magari anche registrate al volo, e mi è capitato di, magari lavando i piatti o facendo delle cose quotidiane, di canticchiare questa cosa. Dico, ma dove l'ho ascoltata? Poi dico, oh madonna, è mia! L'hai scritta a te. E quindi mi rendo conto un po' di questo. E sono contenta, nel senso che probabilmente è anche un motivo per cui ho scelto di continuare a fare questo mestiere. Che è difficile, ripetiamo, difficile, cioè difficile... per superare tante difficoltà, cioè incidere un disco è bellissima cosa, vederlo in negozio, venderlo alla gente è una sì. cosa bellissima, però quale pathos, quale difficoltà, quale tensione si arriva per averlo sui negozi, sì. è una cosa è un percorso ormai veramente difficile. Difficile, sì, difficile, ma è bello perché l'avete costruito voi, avete rischiato voi, avete fatto voi, però sì. c'è anche il rovescio della medaglia. Sì. Certo. La stanchezza poi per arrivare al traguardo. Assolutamente. Non è così. Sì, lei sì, sta sì. pagando un po' la stanchezza ora un pochettino. Sì, io sono un po' esaurita. E io la spingo, la devo spingere, sì, la devo spingere. Però vedi, cioè se uno ha deciso di fare questo mestiere, io ricordo di aver letto a qualche parte, ma uno stesso me l'ha detto lui, Dente, che tu voi conoscete, sì. Dente, e diceva che lui si è fermato 6 mesi, ha preso 6 mesi lavorativi di fermo, una pausa. E andava a suonare dappertutto con compenso un panino, spesso un panino e una birra, per farsi conoscere. Andava dappertutto e gestiva lui, come gestite voi le date, progetto. Tutto quanto. Certo. Lui, secondo me, l'unica soluzione Lubian la troverà, come ha sempre fatto, nella musica. Ecco, esattamente. Cioè, va bene questo momento di fermo, va bene questo momento di difficoltà, comunque sta continuando a lavorare, a fare le date, però dico questo momento un po' di non sapere dove andare, però se si rimette ancora con la chitarra in mano davanti al suo computer a registrare, a scrivere e a buttare fuori, riavrà un'altra volta i suoi stimoli. Io ne sono convinto di questa cosa, perché è sempre stata la soluzione per tutti. Il disco è uscito, quindi ci vuole un po' di tempo, ci vuole... Adesso... farete sentire no, in ma giro. Adesso altri pezzi nuovi da proporre anche già nei live, magari sì sì, sì. Dobbiamo è tutto in movimento, stupire. Sì sì sì sì, dobbiamo tutto stupire. Mantenendo in parallelo ovviamente il lavoro, questo è importante, è uscito da poco. No, ma come dicevo sì. prima, speriamo che vadano in porto i nostri contatti per questo disco e per eventuali poi collaborazioni future, che ci sarebbe insomma un'etichetta così alle spalle con una strutturina che ci può insomma iniziare a guarda, non un è percorso. Che chiedo tanto, sai, mi basta cominciare magari a fare, non so, qualche apertura, e poi quando prendo, diciamo, credibilità, non perché non ne abbia, però voglio dire, quando magari la cosa prende più piede, che comincio ad avere anche un pubblico un po' più numeroso, inserirmi in un giro, sì. Io ti dico perché sono un po' stanca, perché comunque mi rendo conto che da 15 anni che giro, adesso come adesso avrei voglia di avere, come dice Flo, una magari anche una piccola struttura che anche mi faccia fare un passo indietro, cioè nel senso di fare magari prima delle aperture e poi di prendere un mio percorso. Che sì, però si prende la responsabilità della distribuzione, sì, della promozione. Cioè io sono stanca come tantissimi, ma io ho un sacco di colleghi, amici, e me ne vengono in mente veramente una valanga. Lo stesso che Massimo Danieli. Che salutiamo. Ciao Massimo, che è venuto qua a suonare un po' di tempo fa. Ilaria Pastore. Ilaria Pastore, per esempio. Cioè comunque di gente che si fa tutto da solo. Tutto da soli. Cioè si trovano le date, devono occuparsi di questo, di quell'altro. Però alla fine è la musica a cui dobbiamo pensare noi. E per cui è un po' lo so, limitante per quello, insomma. Capito. Comunque io sono in ballo e continui a ballare. Sì, sì. Cioè, come, è difficile fare il manager di se stessi, sono perfettamente d'accordo. Poi a volte mi chiedo, ma che lavoro potrei fare? E non mi vedo in nessun modo, perché tutti i lavori che ho provato a fare, cioè dopo un po' scappavo o mi lasciavano a casa perché cantavo troppo e allora... Cioè, riconducevano tutto a questo. Sì, esatto. E quindi... La passione era più forte, chiaramente. Sì, sì, sì. Benissimo, abbiamo quasi concluso, Michele, sono le 23:56 e abbiamo finito questa cavalcata, sei d'accordo? Ti vedo un po' stanco oggi. Sei un po' stanco. Quello non ti fa bene, quello non ti va bene, assolutamente, quello non ti fa bene. Bene, abbiamo presentato Monday Night, che è l'ultimo disco di Lubia, una bella copertina, la facciamo vedere alla telecamera, si vede? Bellissimo, sono rossa nella foto, però in realtà è una parrucca. Ah, è una parrucca. di là? Ma basta. Ok, perfetto, e sei rossa, cioè è una parrucca. È una parrucca, è sì. Una parrucca. Però ho intenzione di metterla magari nei prossimi live, che ne so, in teatro, perché magari nei locali fa un po', potrebbe fare un po' ridere, però vediamo insomma. Bene, e il libretto chi è stato fatto? Allora, poi, sì, il libretto si chiama Arianna Biasiolo, la grafica, e invece la fotografa, la mia meravigliosa Martina Di Nato, io non so se ci stia ascoltando, non credo, però comunque le voglio un sacco bene, per me... Anche noi ad Arianna però. Anche tanto ad Arianna, sì, tanto sì. Benissimo. Arianna Biasiolo. Ok, abbiamo finito allora questa presentazione del disco di Lubia, ringraziamo anche Floriano Bocchino che è praticamente... Voi. È stato il direttore artistico, può dire così? Sì. Il mio braccio destro. Il tuo braccio destro. Sì. Citiamo l'ultimo momento, qualche altra data, se ti ricordi. Sì, allora... Una data vicina praticamente. Sì, stavo pensando... Il 7 dove suoniamo l'8. Ah, allora, sì, se volete tutti i radioascoltatori, l'8 marzo siamo al Camagre... È un locale di dove? Di Isola della Scala a Verona. A Verona, bellissimo. Ok, e per la festa della donna ci saranno Veronica Marchi con me, e Ilaria Pastore e un'altra ragazza cantautrice di cui non ricordo il nome. Quindi, chiedo scusa. Quattro ragazze. Ok, poi se volete il 7 invece sarò come ospite due brani per una festa anti della donna, cioè un'antifesta della donna. Ho capito. Con musica, teatro, poesia al Banale, dove ci saranno anche delle danza del ventre, delle bene, cose bene. Così. Per cui insomma. Quindi uno spettacolo, ecco, nello spettacolo. Esatto. Per il resto delle date invece potete MySpace. Guardare il MySpace, quindi www.myspace.com/lubian o anche Floriano Bocchino. Oh, esatto. Ecco. Il tuo progetto adesso è uno con sì, Molteni, vero? Suono con Molteni, sì. E suoneremo il 5 a Milano, poi andremo all'Auditorium della Rai a Roma il 12. Benissimo. Dopodiché il 26 marzo invece si apre l'altro progetto con Max Zanotti, in duo il disco abbiamo fatto piano e voce, uscirà, che si chiama Crossover. Perfetto. Vi manterrete aggiornati, sì, anche. Poi arriverà anche qua il disco probabilmente. Esattamente. Grazie ancora a Lubia e a Floriano. Grazie a voi. E adesso terminiamo con l'ultimo pezzo, Lubia. Sì, volevo farvi ricordare qualcosa dell'album 2005, il brano che insomma mi aveva anche portato un po' di fortuna, What is Past Can Hurt esatto, No More, esatto. È il preferito poi di Davey Raymore, il produttore precedente. Esatto, ex mente dei Cousteau, e niente, volevo farvela risentire live. Grazie, buonanotte a tutti, grazie prossima a settimana grazie David Tosh dal Piemonte, e grazie a Michele Tosoni in regia. Buonanotte, grazie a voi. Buonanotte. Rock Wave, l'onda del rock. L'onda del rock. You You shake your head, you can find me anywhere, anywhere. You still talking in vain here beside me, by the way, by the way. You know you could be more original. You wave your hand, I don't see you anywhere, anywhere. I can hear your dull voice here beside me, every day, every way. You know you could be more original, and you could be less illogical. Please forgive me if I forget you. What is best can hurt no more. Maybe you forgot to love me. What is best can hurt no more. Beside me, by the way, I can hear your dull voice, you can find me, every day, every way. You know you could be less illogical, so please forgive me if I forget you. Maybe you forgot to love me. Ways best can hurt no more. You're still talking, you're still running, you're still hurting me. Then you call me. You're still talking, you're still running, you're still hurting me. Then you call me. Please forgive me. If I forget you, what is best can hurt no more. Maybe you forgot to love me. What is best can hurt no more. No more. No more. No. Blu Radio, Rock Wave, l'onda del rock. L'onda del...